42. Risi e Luganighe. Le popolazioni del Veneto non conoscono, si può dire, altra minestra che il riso, e però lo cucinano bene e in tante svariate maniere. Una è il riso sul brodo con la salsiccia, ma colà le salsicce le lasciano intere. Io preferisco disminuzzarle nel brodo quando vi si mette a cuocere il riso, il quale non è bene lavare, ma soltanto nettare e strofinare in un canovaccio per levargli la polvere. A me piace di unire al riso con le salsicce o rapa o cavolo cappuccio. Sia l'una che l'altro vanno prima imbiancati, ossia mezzo lessati. Tagliate la rapa a dadi, il cavolo a fettuccine e metteteli a soffriggere nel burro. Poco avanti di levare il riso dal fuoco, aggiungete un buon pizzico di parmigiano per legarlo meglio e dargli più grato sapore.